agenti di guerra picchiano su noi, il buon senso cede il posto ai martiri e agli eroi. Se il mondo pompa odio, la speranza sanguina un po', ma ho fiducia perché, ragazza, tu credi che... Tu credi che nel mondo ci sia un posto anche per te. Tu credi nel domani e che un domani c'è. Tu piangi nella gioia, sorridi se stai giù, e non lasci che il destino ti controlli più. Tu credi che le regole inventerai per giocarti i numeri che nella vita troverai, e credo che al di là del limite a ciò che c'è, la mia vita suona meglio perché tu un posto anche per te. Tu credi nel domani e che un domani c'è. Tu piangi nella gioia, sorridi se stai giù, e non lasci che il destino ti controlli più. Tu credi che le regole inventerai nella vita troverai, e credo che al di là del limite a ciò che c'è, la mia vita suona meglio perché tu credi in me. La mia vita suona meglio.